Buonasera, allora possiamo iniziare. Inizieremo con Anime Libere. Noi viviamo di albe e di notti, col corpo ricoperto di cerotti che difendono i nostri tagli. Si rimargineranno anche se sbagli. Forse noi non esistiamo davvero, ma siamo manna caduta dal cielo. Siamo ombre dei falò e dei lampioni spenti, anime libere sotto stelle cadenti. Cerchiamo sempre la bellezza perenne, anche sempre ad uno squilibrio costante. Teniamoci stretti per evitar di cadere, fiamme rosse e blu intrecciate in un braciere. Viaggiamo soli sotto la stessa coperta, il nostro salvagente di carta. Chiudiamo gli occhi quando arriva la luce, urliamo quando il resto del mondo tace. Sei sempre un'emozione nuova, diversa ma te stessa. La vita spinge avanti, lontano dalla via maestra. Tu mi hai detto un giorno l'amore è reciprocità, totale desiderio dell'altrui felicità. Chissà, magari un giorno arriveremo pure a questo. Lasciamoci guidare, tanto è ancora presto. Il sole ancora rosso, vedi lontane la sera. Non facciamoci ingannare da una nube passeggera. Viviamo dentro una bolla di sapone, alla quale purtroppo però ma anche il copertone, la camera d'aria è esposta alla strada. Basta un sassolino per mandare tutto all'aria. Siamo marionette nel teatro di mangiafuoco, attori e attrici con in mano uno spartito ignoto. Non provare a leggerlo, pensa solo a giocare. Forse se siamo bravi ci riusciamo a liberare. Sei sempre un'emozione nuova, diversa ma te stessa. La vita spinge avanti, lontano dalla via maestra. Tu mi hai detto un giorno l'amore è reciprocità, totale desiderio dell'altro infelicità. Chissà, magari un giorno arriveremo pure a questo. Lasciamoci guidare, tanto è ancora presto. Il sole ancora rosso, vedi lontane la sera. Non facciamoci ingannare da una nube passeggera. Viviamo di albe e di notti, col corpo ricoperto di cerotti che difendono i nostri tagli. Si rimargineranno anche se sbagli. Forse noi non esistiamo davvero, ma siamo manna caduta. cielo. Siamo ombre dei falò e dei lampioni spenti, anime libere sotto stelle cadenti.